qua è Santo Pulinare, quindi deve essere a due bassi. La mia invece più lontana, quindi. Comunque arriva calda, è pronta da mangiare. L'importante è che non ci sia traffico. Però non so se siano aperti o meno, perché non si capisce, in effetti non si capisce più un tubo. Si apriranno fino a una certa ora, apriranno, per carità. Speriamo che siano aperti, mi auguro, almeno. Cioè, come lo fanno a lavorare questi poveracci, boh? Si arrangiano come tutti. La politica, troppo, la situazione è quella che ce la dobbiamo tenere a quanto pare. Guarda. Sì, una rottura di palle, una vera rottura di palle. Aspetta un attimo. 2, canale 2. Prova, boh, a me non mi convince, così va, sicuramente entra l'imitatore, sento i colpi sul mic, e altro che, bisogna parlare di lato, dai. Sì, andare, ui, che abbiamo fatto? È presto, sono le 6:20 circa. Ancora quasi le 6:20, dai. 17:39. Ho visto adesso dal cellulare. Dopo il video e come si dice. Dopo prendo ho il telefono, ma o mi avvicino io. Eia. Se te la portano a casa dipende quanto è distante, dai, se è vicino gira, ti conviene farti in giretto. No, chi è stato Mulinare? Sì. Come la fanno in tutti i modi? Io penso di sì. Vabbè, Giuseppe Lazionda, poi. Stavo parlando male di nomi. Hai sentito? Sì, Marco. Ragazzi di bende. No, si stanno aumentando perché noi facciamo queste sugli argomenti. Non ho capito. Non c'è bisogno di prendersela, no? Sì, ma entra nella testa la gente, non basta neanche un trafano oramai. Sono fatti così. Cosa vuoi che ti dica? Trattare se dice sono strapaganti. Vabbè, non c'è bisogno di prendersela. Ci siamo sfruttati e basta. E poi stiamo parlando di altro, stiamo parlando di. Hanno dei due ore di radio, nessuno dice niente. No? Non c'è, invece non abbiamo fatto niente di male. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Io certe cose non le capisco, quindi è così. Mi spiace perché, insomma, facciamo quello che vogliamo, ascolta. Vabbè. Marco. Ehi. No, dicevo, ho sentito, sì. Te l'ho mandato in onda, lo stavano dicendo, in real time. Che cosa? Aspetta che mi ero distratto. Che si stavano lamentando perché noi parliamo cioè non facciamo i questioni che piacciono a loro, poi non ho capito quali siano i questioni che piacciono a loro. Mi senti? Sì, stavo sentendo le polemiche, pesano ogni virgola che dici, che diciamo. Questo era in real time, proprio a mo' di Ponte Radio. vabbè, pazienza. Vabbè, a me manco per le balle me ne passa. E neanche a me, la pazienza è la prima delle virtù, diceva qualcuno. Adesso accendo la TV che comincia a far buio qua, comincia veramente a far buio. Alle 6:15, che cosa sei a questo orario? E qua, papà. Un cracco. Ecco, di far non fare niente, c'è un tanta di cucardo. Vabbè, ti rifugio. Vabbè, vabbè, cucardo, un po' buioso, un po' cucardo. Volevo andare là, farmi il picchinic, ma c'era un certo, dito, se chi mi ne viene, la poi mi sa fare i grigi. C'è il gatto di Gaimare. A fare il picnic? Perché non si può fare? Ma magari pagano per ti la scarpa, non volevo scendermela. Portavo il fornello, portavo la piastra e cucinavo lì direttamente lì e mangiavo, cioè faccio a mare. Ma ci ho rinunciato, ma cosa troppi che ti rompi palle ci sono in giro. E comunque non è vietato, che io sappia per adesso. Se vai sulla spiaggia, sulla sabbia, non c'è neanche pericolo di incendio, quindi l'importante è non buttare spazzatura o cose lì. Boh. Ah, vabbè, non spazzatura no. Però avevo paura, si sa mai che mi vanno a rompermi la balla, hai capito? Sì, vabbè, se non la pensavo così però non uscite di casa. A proposito di griglia eccetera, Marco la sta cucinando, perché questo è l'orario della cucina. Confermi, Marco? Che cosa? Un attimino che ero in bagno. Abbiate pietà. Cosa mi avete chiesto? No, ho detto se sei in cucina già. No, ma mi tocca. Eh sì, mi tocca, sennò poi veramente si fa tragica la solita, il solito orario, no? Sì, è bruttissimo questo orario. Tu pensa che a quest'ora già erano le 7:15, quindi quasi ora di cena. Così è. Magari mangi a mezzarotti, così è. No, io mangio sempre presto, perché poi mi guardo la televisione. Marco, sì, a mezzanotte, no, il pranzo a cosa lo fai, Marco? Dipende, e alla fine parliamo però sempre di questa cosa, cioè 6:30 normalmente, la cena a mezzanotte. Ah, l'ho detto un'infinità di volte, dai, non ti devi ripetermi. Lo so, ma poi ce ne dimentichiamo, quindi poi non si sa mai che cambia abitudine. No, porca miseria, si è fulminata. Si è fulminata la lampadina LED del lampadario. L'ultima utile, accidenti. Bisogna cambiarla, domani la compri. Eia, ma che palle, eravamo ieri dai negozi, eccetera. Ha aspettato la domenica, va a fulminarsi, è sempre così. Che non ce l'hai di scorta? Di quel wattaggio no, di quella potenza no. Sono troppo blande o troppo forti. L'attacco è piccolo, mi pare, però devo controllare, non sono nemmeno sicuro. Conviene tenersi sempre una di scorta. Ma io quando sono entrato qua, vedane che ci lumicini, vedane. Ha giubilato, l'ho comprato nuovo, tutto, le lampadine. Poi da Bricco ci sono quelle da confezionare da 3. Lo so, ma io l'ho presa a LED e tutto. Cazzo, non ci voleva niente. Mi negava, cioè, credimi qua, l'occi mi negavava. Cazzo, moscia. Ah, appena di lampati tutto, beh. Ha giubilato e gli ho messo nuove. Che poi credo che non se ne trovino più comunque, non si trovano più neanche quelle. Quelle dell'altra serie, no? Quelle che non sono tonde, non a LED, quelle che erano tutte sagomatte, hanno a basso consumo, ma non a basso consumo come sono quelle a letto. Ah sì sì, stai dicendo quelle, ma oramai a LED è una cosa, è tutta un'altra storia. Sì, soprattutto per i consumi, non consumavo niente praticamente. Marco, vai da Bricola. Ehi, io devo staccare però, a parte gli scherzi, io qua devo far roba. E quindi chiudo qua, dai. E sentiamo quando capita, se no non riesco a combinare nulla, dai così. Uia, aspetta, mi si secca, devo bere, devo staccare, dai, inutile. Va bene Marco, buona serata, allora alle prossime. Ok Marco, dai, ce la risentiamo, alla prossimina, ciao ciao. E anche attento, ciao, sentiamo, dai. Mi metto all'opera, ciao ciao. Ciao ciao. Ok, una curiosità, dalle parti tue, come si è ripresa la TV? Da Monteoro, giusto? Sempre da Monteoro. Senza amplificatore, è vero? Non ne abbiamo, io penso che non ce ne sia qua amplificatore. No, non vi nella. Ho capito. No, perché c'è un collega che capita in quelle zone, sempre, che c'era qualche problemino, ma probabilmente il vento ne ha portato una pelle. Potrebbe essere. Chi è che vuole entrare sotto? Avanti? FM sembra. Sì, è un po' basso, ma chi vuole entrare siamo in AM. Lo sentivi quel segnalino? Lo sentivo. Forse magari non ci va in radio, è per quello che non ha... Avanti, che vuole entrare, capa! Ah, che francese sarà, Francese, tedesco. A volte ce ne sono più di uno. Ok, sono le 6 subito. Anto, anch'io mi allontano un attimo, perché inizio a chiudere qualcosa, perché fuori c'è tutto aperto. C'era il sole e quindi scusate, aspetto adesso invece scende la Iazza, già lo sai in campagna quando scende sembra che piova, no? Passa dal caldo al freddo, quindi adesso vado fuori e chiudo un po' di roba. Ok dai ci sentiamo, ok, fai non c'è problema. C'è di nuovo il segnalino, però non sta uscendo il radio. Va bene, a più tardi, anzi buona serata e buona domenica. Security X. Avanti, ci sentiamo qua in Sardegna, avanti. Hola hermano. Sono germano, no, sono Sassa di Sardegna, Sassa d'Italia, avanti. Enrico del Siviglia, se mi intiende l'amico. Ma come ti arrivo lì? Hola, mi intiende? Security X. Avanti in Sardegna, ti sentiamo. Hola hermano, ti scuso. Un bidone, e se sono trambisi? Oh, attenzione Claudio. Non c'è nome che non c'è la propagazione, è un bidone, c'è chiù. Cerca di... va. Claudio, mi senti? Dimmi. Quando è che ti posso fare una bassa? Quando vuoi, anche adesso, non c'è problema. Ok, dammi il tempo di chiudere tutto, se devo uscire un po' fuori. Ti richiamo tra un 5 minuti. Non c'è problema, sono qua. Ero sul 20 e stavo cercando Ricci, ma non le trovo. Che capa? Bisogna di Baruguro allora. La mazza che te ne varia. E tu, stai attento. Anche se anche uno vuoi nomi, c'è chiù. Se non viene la propagazione, va c'è chiù. Un c'è chiù che muoia in capo. Però cavolo, è vero, stava arrivando forte anche qua. Vado in QRX sul canale 10, Ok, dai. Che io stavo trasferendo lì.